parte di te, sto come no. Il tempo che ho perso perché cerco mezzo cuore cemento dentro io. Davanti sto fermo ad un impatto, non so parte di te. Dentro i miei labirinti, l'ora che scatta da sti infantili, già che comunque mi rende più triste il tempo che scappa come bambina. Non so come io penso alle cose giuste, faccio di tutto per essere giusta come perfetta, casa perfetta, mi crolla tutto, ma non sbaglia meno male. Sei tutto quello che io odio in parte, lo giuro si importa, infine ti amo, chi se ne frega, beviamo su quel divano, poi ci facciamo male. Sei tutto quello che io odio essere. Non so parte di te, sto come no. Il tempo che ho perso perché cerco mezzo cuore cemento dentro io. Davanti sto fermo ad un impatto, non so parte di te, sto tutto io. Che parte di cerca mi lamento in mezzo al cuore cemento. Io no, ti danno da te, ti fanno tanto ta ta ta ra ra ra ta ra ra ra. Tanto.